Sabato al TPO di Bologna si terrà Indie Pride, questo festival che si tiene dal 2012 e che vedrà moltissimi artisti interessanti. Noi tutti di Fujiko Factory saremo là. Ora, abbiamo intervistato una delle band che parteciperanno a questa edizione 2018, quindi Gaspare al telefono, parliamo con i Botanici. Voi siete di Benevento intanto, quindi campani, ma con un legame importante con Bologna, perché la vostra etichetta, che è Garrincia Dischi, è di qua. Il vostro produttore del disco, che è Bebo dello Stato Sociale, è di Bologna, e anche i ballerini del video, tra l'altro, non sbaglio più, hanno la scuola qua a Bologna, pure loro. Sì. Tutto questo legame così importante, da cosa deriva? La band è nata, diciamo, a Benevento, ma subito la demo nostra ha incontrato Bebo in un concerto che tenne giù, e niente, poi da lì è partito tutto, perché lui ha deciso di produrci, e poi insomma è venuto tutto da sé, nel senso che Garrincia Dischi in Bologna, spesso siamo lì per lavoro, appunto, con l'etichetta, e quindi poi alla fine abbiamo sviluppato tutti i nostri contatti lì a Bologna, quindi anche i ragazzi del video di Non Sbaglio Più, ma anche l'altro video di Binario è stato registrato a Bologna, tra le varie stazioni di Bologna, quindi poi vedi tutto quanto il mondo nostro adesso è a Bologna. Ok, e tra l'altro sabato 27 sarete al TPO per Indie Pride, che è un evento abbastanza particolare, insomma, con dei valori anche che porta. E, cosa vi spinge a partecipare a Indie Pride? Ma guarda, Indie Pride in realtà è un'associazione, una realtà che a noi ci sta particolarmente a cuore. Già l'anno scorso eravamo presenti come visitatori del festival, perché appunto un'iniziativa importante che tratta di temi come antisessismo, bullismo, insomma tutte quante queste tematiche che ci stanno molto a cuore, e quindi vogliamo dare anche noi la nostra e partecipare, insomma, con la nostra musica per ribadire quello che purtroppo non dovrebbe essere, insomma, ribadito, ma che pare che ce ne sia ancora bisogno, insomma, di questi valori che molto importanti per noi, che insomma l'uguaglianza, diciamo, prima di tutto tra le persone, che quella è la cosa fondamentale, insomma. Vorrei dire che, visti i tempi, purtroppo è sempre più necessario. Il vostro genere è stato definito un po' un post-emo, un post-punk, e voi da dentro come lo definite? A chi vi ispirate per la vostra musica? Beh, noi abbiamo iniziato con tutto quel filone emo, se si può dire così, del periodo di 3-4 anni fa, quindi non lo so, un po' Find Before You Came, insomma tutta quella scena underground dell'epoca, insomma, non lo so, come artisti ci ispiriamo o ai Fugazi, magari, non lo so, ai Gazebo Penguins, per dirne uno italiano, insomma tutto quanto quel genere lì, che poi insomma le definizioni non ci piacciono molto, soprattutto per quanto riguarda il genere. Ecco, per noi facciamo rock, cioè noi la definizione massa è rock, poi insomma sta agli altri deciderlo. Allora, ti faccio l'ultima domanda. Vai. Allora, l'album Solstizio è dell'anno scorso, del 2017, quindi domanda abbastanza classica, immagino. E il futuro cosa ci aspetta? Avete già qualche progetto in programma? Beh, noi abbiamo con il primo disco, insomma, della band Solstizio, abbiamo fatto un tour di più di 70 date, e abbiamo anche fatto una riedizione del disco con 3 brani nuovi presenti nella riedizione. E l'obiettivo è fare sempre di più, chiaramente. Siamo già al lavoro per il secondo disco, che speriamo esca magari non nei primi dell'anno prossimo, però insomma almeno per metà 2019. Questo è l'obiettivo, e stiamo lavorando per continuare sulla scia del primo disco, e quindi anche di continuare a fare live e di fare quello che più ci piace, insomma. Fantastico. Allora, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Ci Grazie. vediamo sabato 27 al TPO, anche perché io non v'ho mai visti dal vivo e è un sacco di tempo che cerco di incastrarmi una data per venirvi a vedere, quindi stavolta ce la Dai, faccio. perfetto, mi fa piacerissimo, grazie mille Grazie a te. mille, ciao, buona giornata. Ciao.